Claudio è entrato, adesso è andato all'altra radio. Comunque buon Natale a tutti. Niente, se ti serve Natali ti mando io c'è il sito, capito, della Smartech, dove trovi le caratteristiche di quell'antenna lì, J-Pole, e poi fa anche altre antenne. No, è Franco che l'ha chiesto, capito. Ah, Franco allora non ce l'ho il nome, a meno che non lo mandate, poi tu glielo mandi a Franco. Però basta mettere Smartech J-Pole e c'è il sito e ti fa vedere tutto. E infatti adesso c'ho il computer acceso e la voglio vedere come antenna. No, già la trovo, tranquillo. Presa, me l'ha data Claudio, però devo trovare un attimo per piazzarla, capito? Ho preparato un palo di sostegno, la base più grossa, tubo da 50 e spessore 3 mm, però non aveva il fissaggio, quindi ho fatto i fori con la filettatura, ci ho messo due bulloni tagliati e così ci incastro l'altro che c'è, la sezione grossa, e me ne salgo a 4-5 metri, così posso salire anche a 6 e 7, uso l'ultimo tratto, però non la voglio mettere troppo in alto, se no già è 8 metri l'antenna, se no arrivo alle nuvole. L'ho già vista io, bella come antenna. Anche leggera, era maneggevole, perché io per metà ce l'ho già composta, perché me l'ha data così Claudio, devo mettere solo, comporre gli stili finali del tratto lungo e basta, e poi ho terminato, poi ci collego il cavo al PL e buonanotte ai suonatori. Infatti, dovrei avere il tuo numero Carlo, che me l'ha mandato... come si chiama? Antonello. Sì, gliel'ho detto io, mandaglielo a Natalino se ce l'hai il numero di Natalino. Se mi fai uno squillo, Natali, così mi segno il tuo, capito? E poi me lo memorizzo su WhatsApp. Sì, aspetta che ce l'ho scritto, Che vediamo un po', che così me lo memorizzo anche io. Allora, io non ho bisogno di roba... vediamo un po'. 1000, trovato. Franco, perché tu vuoi cambiare antenna? Ah, io ce l'ho già qua da cambiare. Devo comprarmi solo lo spezzone del palo e basta. C'ho il tirante, tutto pronto qua, per piazzarlo. Che antenna devi mettere? Una Mantova? No, una Game Master, non ne posso mettere antenne così pesanti. Ce l'ho la Mantova 5 in campagna, sopra 12 metri di palo, che se ne sta ridendo. Caspettina, ma la Game Master è ottima come antenna, ce l'ha, insomma, ho tanta gente che la usa, ho visto le recensioni, è un'ottima antenna, capito? Senza radiali, è tipo di polo, ha una buona resa, 5 ottavi, ottimo guadagno pure. Mi pare che più mamma più là mi pare che me la piace pure io che c'ha Gimpol. E hai lo spazio, Antonio, se lo spazio in altezza, diciamo, già è ottima, perché adesso io, come migliora il tempo, se mi dà un giorno intero di bel tempo che mi trova il numero libero, capito? Io ho questa per adesso, mi va bene, non la cambio, però stavo pensando di mettere qualcos'altro più in là. Io ho questa Ringo, tutti la criticano, però a me va bene. Su quale sito è quell'antenna, Carlo? Carlo? Scusa Anto, che mi ha chiamato Natalino per memorizzare il numero ed ero al telefono con lui. Ehi, non c'è problema. No, ti volevo chiedere, Franco, che sito era? Allora, il sito, aspetta, glielo dico io. Allora, aspetta che lo cerco al volo su Google. Smartech J-Pole. Allora, praticamente deve digitare Smartech con la H finale. La ditta è quella, la ditta che fa le antenne, Smartech, con CH finale. E poi se mette J pole la trova subito. Sì, l'antenna si chiama verticale J pole 27 MHz. Se digita quello lo porta sicuramente al sito, Franco. Ok, dai. Un'antenna 7 ottavi, capito? È molto, diciamo, lunga, in totale circa 8 metri. Il peso è comunque contenuto, è tutta in alluminio, ben diciamo le giunzioni fatte bene, c'è la vite, le fascette da stringere, poi non so se isolarla bene, vulcanizzarla lì dove ci sono gli attacchi con le fascette oppure lasciarla così. No, vulcanizzala. Cosa dici, Natalia, è meglio vulcanizzarla? E poi ci passi il grasso di vasellina, tutto nei cose. Ho capito, ma non gli succede niente se ci metto, cioè dopo che l'ho isolata metto questa vasellina. E cosa le fa, perché io non lo uso? No, metti solo il naso vulcanizzante, sopra il naso vulcanizzante e gli metti il naso isolante, basta, non ci vuole altro. L'importante è isolare le giunture, per non entrare acqua e malevrare. Eppure io non sono d'accordo così, cioè se tu li metti la vasellina l'acqua scivola, ultimo però, se tu li metti la vasellina nel PL dove c'è tutta quanta quella roba lì, l'acqua non entra. Io quando ho tolto il PL l'ho tutto pulito, l'ho. Beh, il PL era lucido come il primo giorno che l'ho messo, perché l'ho isolato così, perché se tu metti la vasellina sopra, quel grasso di vasellina, l'acqua scivola e non attacca, capito? Dove l'acquisto questa qui, questa vasellina, che per che uso è? Fermenta, grasso di vasellina, per i mulinelli, quella roba lì che si usa, che non si asciuga mai, capito? Se tu li poni ghisso, cioè li fai tutto quel coso, come ha detto Natalino, poi all'ultimo li metti quello, col cavolo c'entra l'acqua perché scivola. Ho capito, perché visto che è così alta, una volta che la piazza non è che sto lì a controllare ogni tanto se c'è roba che entra o meno, capito? Una volta la piazza lì spero che mi duri anni e poi quando si rompe la leverò, cambierò antenna, capito? Quindi allora a questo punto meglio vulcanizzarla bene e isolarla con questo, con questa vasellina, così dura di più. Ma no, non ce n'è bisogno della vasellina, lo sai perché? Perché isolano i cavi elettrici che vanno sott'acqua col nostro vulcanizzante. E se non scoppiano qui, la pompa sommersa l'abbiamo, i collegamenti li abbiamo vulcanizzati ed è a 80 metri ed è immersa nell'acqua. Capito, comunque se ci metti qualcosa che fa scivolare via l'acqua è anche meglio, anche perché secca meno anche il componente del nastro vulcanizzante, così. Ma fate come volete, io gli metto solo il vulcanizzante e buona. Tanto invece lo resi, non la mia. Mi sta dicendo una cosa, Lu. Natalio, ho detto, ma sono in macchina a Bari. Ma sicuramente lui non mi sente neanche. Ma non è che c'ha lo squelch, ma le stativari a posto sono. Ma che io? Ehi, a Puglia. Se arrivate tutti bene. Carlo, bene mi ascolti. Sì, 9 più 30 qua da me, Luca. Zappa, vedi, tu arrivi forte lo stesso, siamo 9:30. Boh, Natalino è basso o basso? Natalino, 9:20 c'è Luca da me. Sì, ma Natalino... Oia, dimmi... Natalino, movimento. Uguale da me, sei 9:20. Se vuoi ti dica, non lo so, arriva, no, sicuramente lui non mi sente, guarda, ci posso giurare, è già successo. Carlo, quanto ti arrivo da te? Da qua, da me, fa, mi arrivi fondo scala, capito? Fondo scala, mi si illumina tutto, quindi radio ottima e il segnale fondo scala, mentre invece Luca mi arriva più basso e mi arriva 9.30, tu mi arrivi al massimo. E questo neanche tu arrivi bene comunque, Carlo. Ma tra la modulazione dov'è? Io sono tra via Lunesole e via degli Astronauti. E zona alta, dai, anche io sono zona alta, no, stai arrivando benissimo qua, ti ascolto bene. Natalino non lo so, vai Natalino. E io a Luca non lo ascolto, boh. Giudizio. Io lo sento basso basso a lui. Forse entra in posizione negativa per te, Luca, l'antenna di Natalino. Boh. No, io mi parlo sempre con Natalino, sempre alla grande. Prima Cosa vuoi già dirti? Comunque il più forte sai che è, fra, zitto. Infatti, allora. Cazzo, niente, guvita, non sei forte, ma il più forte è la zitto, secondo me. Ma a me non mi interessa la potenza, mi interessa che mi ascoltino più basso, non me ne frega più di tanto. Sì, ma per me ce l'hai anche per i porci, tanto su, non, poi alla fine è meglio che non emetto, sembra che ne è caro questo cazzo di antenna, infatti abbiamo fatto anche il tetto nuovo da fuoco, ma non mi interessa, rimani lì finché dura, allora non invara, non è buon gubbiù, non è buon stacco tutto le nocchie. No, è una questione di potenza, è una questione che di QRM, di ricezione di tutto, questo è superiore alla Mantova, io ce li ho tutte e due, e io vado già a zero, capito? È una questione solo di ricezione, perché una 7 ottavi e l'altra 5 ottavi, trasmette meglio, riceve meglio, non ha QRM, io a volte mi preoccupo, cazzo, non cioè, a dire QRM, fruscio, niente, essendo la Mantova vale 5G di QRM, è un altro tipo di antenna, tenendo conto che chiunque la prenda va montata molto molto bassa, non la puoi mettere per dire Gianni non la può mettere perché c'è un palazzo alto, tu la puoi mettere perché sei in basso Luca, Franco già è rischioso, c'è capito, ci vogliono palazzi bassi dove l'antenna rimane bassa, essendo 8,50 m lavora bene, capito, perché è un'antenna che lavora anche per terra, capito? L'ho vista. Una bella antenna, sì, solo che qua nella zona mia non so se col vento come si comporta. La zona tua, che tu più vento di me vai, cazzo c'è a 150 metri, gioco a 400 io, cosa vento, ma quale vento? Ti ho detto quell'antenna alla Mantova di base 7-0, è un bel robusta, non la guardate così in figura, dovete vederla mia. Carlo già l'ha vista come è fatta, è robusta, poi sono due antenne accoppiate, quasi. La metà è praticamente due antenne con delle barre in acciaio, quindi è molto molto robusta. Io ce l'ho e si muove solo la punta e basta, il resto non si muove per niente. E diventa un abbigliato, un bel. Ma cosa costa di prezzo? 200? È 180 più 20 di spedizione. 200 euro, vabbè è buono come prezzo, adesso per un po' dai. Guardati le caratteristiche e guardati i video e guardati tutto. È la migliore antenna in assoluto che stanno smerciando adesso. Io non la conoscevo, l'ho conosciuta e in Sardegna ne ho già fatto mandare 30, ho fatto il conto, nella zona di Cagliari, Oristano, Nuoro. E due ce li abbiamo a Sassari, io e Carlo. Poi vedete voi, se ricordatevi, se Mondesta prendete, Mondesta avete, questa è un'antenna eccezionale, tutto qua. Va bene, vi sto ascoltando, se sono anche da un'altra parte. Aspetta che rispondo a Roberto. Gappa, già. Purtroppo già una bella antenna, ma io qua non c'ho tanto palo, quindi secondo me la potrei anche mettere. No, una bella antenna veramente. Comunque la zona che irradia e riceve e trasmette è la parte finale dell'antenna, e come diceva Claudio, anche se tu la metti a un metro dal suolo funziona perfettamente, capito? Ha delle caratteristiche eccezionali questa antenna, io non vedo l'ora di metterla. Adesso ho preparato tutto, appena fa bel tempo, che sono sicuro di una giornata di tempo buono e che sono libero, salgo, penso in mezz'ora di smontare l'altra antenna e un'altra mezz'ora di piazzare quella, esagerando anche un'ora che sto lì a vulcanizzarla prima di mettere il tutto, eccetera. spero di metterla quanto prima, perché non vedo l'ora di usarla, come quando acquisti una cosa nuova e la vuoi usare a tutti i costi, capito? Solo che molte volte devi fare il compromesso con la meteorologia. Cappa, bene, l'antenna che spinge bene, basta punirli, basta i 2 metri di baro, magari, e va bene. Ma per la 27, se tu hai una buona antenna, col cavo buono, la radio, diciamo, in perfette condizioni, anche con 5 watt, per quanto riguarda la trasmissione locale, se sei in una buona posizione, è più che sufficiente, più che sufficiente. Capo, dai, venuta gente a casa, ci sentiamo dopo, neanche per me. Bene, a più tardi, Antonio, alle prossimine, buon Natale di nuovo. Marco, ci sei ancora. Salino, Luca, che me ne vado in bianco, già sono in ascolto. A più tardi, allora. Ma tu ci sei? C'ho gente a casa, ci sentiamo dopo. Sì, andate, da, ciao. Luca, stoppa. Perché Antonio aveva detto che c'aveva gente, Franco lo stesso forse aveva da fare, e Claudio è entrato un attimo e mi sa che ci siamo rimasti solo io e tu. Ia ia. Anda bene, se. Uia, non ci va gana. Non ha voglia, guarda, zero. E vabbè, oggi avrei mangiato anche parecchio, che era Natale, come tutti, no? E quindi subentra la stanchezza a quest'ora. Ma non ti dico, non più di tanto. Ho mangiato non pieno, un piatto di gnocchetti dal sugo. Poi ho mangiato un pezzo d'agnello, un pezzo di porcetto, un pezzettino di formaggio, ma piccolino, un paio di olive. Ma niente di che, guarda, qualche arancio, un mandarino, poi se non mi ricordo, no, qua l'arancio ho mangiato. E basta, poi siamo avuti uno spumante, qualche dolcino, ma non ho mangiato molto, se mi vado a mangiare guai. Va bene, io lo stesso, non è che ho esagerato, lasagne, tutta quella roba là, carne d'agnello, ce n'era in umido, ce n'era arrosto, e insomma un assaggino di tutto, ma senza esagerare, qualche bicchiere di vino, e poi niente, stasera abbiamo aperto un panettone, ho aperto una bottiglia di spumante, e niente, 4 chiacchiere, qualche noce, castagne c'erano, praticamente niente cena stanotte. Vabbè, no, domani già ci carichiamo un po', dai. Domani c'ho gente a casa, spicchi, dai. Domani passa al forno, agnello, gamberi, non mi ricordo, vabbè, poi facciamo anche un po' di tagliuzzi, ecco, salsiccia, formaggio e quant'altro. Sì, ci abbiamo tutto, dai. Domani faccio la beffa. Domani, sì, chi può fa la doppietta, io domani sera sono a lavoro, oggi ho fatto la mattina ma me ne sono andato via presto perché non c'era molta roba di volo in partenza oggi, perché le compagnie tipo Ryanair il giorno di Natale non volano, EasyJet lo stesso, l'unica è la compagnia che sta sostituendo l'Italia adesso, che fa i voli della continuità, però c'erano stamattina Roma e Milano, 7:15, e poi avevamo un buco sino alle 16, e ho detto io non ci rimango neanche morto, mi sono fatto il permesso, alle 8:30 ero già a casa. Hai visto? Va bene, dai. Già va bene. No, guarda, ieri lo stesso, sono usciti. Va bene qualcosina, ma non avevo manco voglia, perché ero anche stanco, di pomeriggio di solito mi riposo sempre. Poi siamo usciti, cioè sono arrivato a casa che erano quasi le 2, una cosa e l'altra, anzi no, aspetta, se messa a mangiare la mia compagna, poi dovevo andare a un funerale, crocetta veloce, cambiati, usciti, poi di nuovo rientrati a casa, portati il cane, di nuovo riusciti, siamo andati da questo amico ma a berci qualcosa, e poi ieri alle 8 eravamo già a casa, abbiamo mangiucato qualcosina, ma niente di che, ci siamo messi nel divano, caputi. E quello ti frega, una volta ti metti sul divano, ti miglia il sonno e buonanotte. E poi qua hanno sparato bombe, cioè fino alle 2 di notte, alle 3, allucinante, spara, mezzanotte, mezzo ci sta, no, fino alle 3 di manzano, allucinante qua. Le sentivo anch'io, ma polpi secchi, proprio frastuoni allucinanti, e poi di quelli a ripetizione, capito? Ma da qua sento sino a Piazza Le Segni, si sente tutto, ma anche le zone basse di Sassari, io sento tutto, capito? Si sentivano sino a tardi gli spari. Ma qua erano bombe, proprio bombe veramente, poi c'erano i fuochi lo stesso, il cane si è super spaventato, la poverina, stava tremando anche. Infatti non faceva manco dormire a me, mi faceva dormire. Alle 3, alle 4 mi sono preso il sonno, poi alle 5, Io quando sono rientrato stamattina alle 8 e mezza circa, stavo salendo lì corso Trinità, c'erano un gruppetto di ragazze tutte a gambe all'aria con cappuccio di Babbo Natale, ubriache, col telefonino, facendosi selfie, e sicuramente stavano uscendo da qualche locale. Cosa adesso? Che casino va? Capisco che vabbè si spara, aspetta Capodanno, qua un casino, sparano un bel, poi bombe, veramente, poi rimbomba nella piazza, io sono praticamente di fronte alla piazza dei Turi, rimbomba. Credo, ma io dico una cosa, gli spari va bene a Capodanno, no, ma a Natale non c'entrano niente gli spari, che poi ormai sta passando un po' di moda anche a Capodanno, perché ci sono tutte le associazioni per gli animali che protestano, appunto perché ci sono animali che non sono abituati, tranne i cani da caccia, che gli spari li conoscono e non si spaventano, ma gli altri cani e altri animali già si spaventano però. Un giramento di scatto, quando sono esagerati, ui vabbè, qua un casino, qua è d'estate, ui, qua dormire è impossibile, che stanno fino alle 3 alle 4 del mattino, ubriachi, la carità. C'è qualche bar vicino? No, assolutamente no. Portavo qua la birra, quello che c'era da bere. Stanno lì, non fanno riposare. Fanno un casino nero, poi con queste moto, tutte smarmitate. Un casino. Chiama la polizia, ma qui ci viene. Perché la polizia è così, ti dice, noi facciamo ordine pubblico finché non c'è niente di allarmante, anche se il disturbo alla quiete pubblica penso che come reato ci sia ancora in vigore. Infatti, aspetta un attimo, Carlo, arrivo subito. E tranquillo, tanto io sono qua in cucina, poi già ci sentiamo, non ti preoccupare. Antonello? Beppe, Calletto. Cosa stiamo facendo? Nulla. Stavo andando qui facendo il capetto a un microfono nuovo, cioè il microfono devo sistemare. E basta. Tutto va piovendo, stava che palle. Intanto oggi è andata così la giornata, ormai tra il Natale che sta in famiglia, parenti, eccetera, eccetera. Meno male che sabato, domani e domenica, non c'è più calcio, sino all'Epifania, e quindi niente. Lunedì sono di riposo, però penso che il tempo farà brutto ancora. Se fa tempo bello, se riesco a avere un attimo di mattina, salgo su, smonto questa antenna e ci piazzo la nuova. Fai bene, fai. Devi aspettare il momento opportuno per poter installare l'antenna nuova, il discorso è quello. Anche io volevo installare l'antenna nuova, invece c'è quella per la VHF, invece non ho avuto tempo di niente, tra una cosa e l'altra, ho dovuto lasciar perdere. Fanculo all'acqua, cazzo, quest'anno abbiamo proprio tutti i giorni, ho fatto una settimana di bello, per conto di dire, perché la mattina cazzo sembrava che piovesse, quindi non puoi, soprattutto dall'umido non ci puoi salire. Lo so, purtroppo è così, sono più le brutte giornate che quelle belle, cioè adesso questa settimana che è passata ha fatto bel tempo, diciamo, a parte il freddo la mattina presto, la sera tardi, però di giorno c'era sempre il sole, insomma, e potevi fare qualcosa, però ovviamente ci sono anche altre priorità, cose da fare a casa, eccetera, non è sempre che puoi dedicarlo a, che ne so, la passione, l'antenna, la radio, e quindi questo invece non capita d'estate, non ci sono problemi, anzi là devi aspettare le ore fresche, o la mattina presto o la sera tardi a salire sul tetto, se no ti cuoce la testa. Come minimo sì, fa così. Come minimo, trovate lei quelle cose che ti ho dato io, sai che quelle puoi ascoltare i radiomatori, quelli portatili, quindi, ma se vai al 144, anche 145, 525 con il controverso, e ascolti i radiomatori, ascolti, tanto fa 140, 150, se non mi ricordo, 160, se non mi ricordo bene. Sì, sì, le ho visto che funzionano, il problema è che le batterie non tengono molto, capito, quindi devo ideare se riesco con la batteria a sostituirle, saldargliele, capito, però penso sia difficile la cosa perché sono quei pacchi presofusi e quindi non si riesce a sostituirle quelle lì, quindi bisogna dargli un altro tipo di alimentazione, capito? No, già c'è a Torino quelli, tutti quei pacchi batteri dovrebbero essere di Torino, sono in mercato, già le ho viste, quelli che stavano costruendo, cioè dopo quello le facevano tutte in plastica, le facevano quello proprio metallo, proprio vero e proprio. Mi ha detto, vedo male, cazzo, portateli così in ferro smalto. Se tu dici che in GBC le trovi, cioè le batterie le trovi, però il pacco batterie con la slitta, l'incastro, è che non trovi, salvo che riesco a aprire quelli, e allora si può fare, capito, perché levi le batterie vecchie, ci metti le nuove, gliele saldi, capito, e il problema è risolto, poi lo riunisci, lo incolli di nuovo e dovrebbe essere risolto. Sai quante volte l'ho fatto quello? Più di una volta, ormai è così, capito, tanto un sacco di volte di pacco batterie le persone da fare, ci sono batterie, quelle da mezzo, quelle corte, eccetera eccetera, e uno funziona bene, la verità è, perché non se ne scende, l'altro forse è stato parecchio tempo fermo e quindi le batterie, lo sai, dopo un po' di tempo perdono e se ne vanno a far cuffia, sono come quelle, come si chiama, che vengono adesso. Sì, perché le vecchie batterie erano quelle che avevano la memoria e dopo un certo numero di cicli di ricarica le dovevi proprio cambiare, invece quelle che fanno adesso sono più performanti, praticamente non hanno più quella sorta di memoria, chiamiamola così, e anche il materiale che usano è diverso e quindi sono più a lunga durata e anche come cicli di ricarica ne hanno circa il triplo rispetto alle batterie di prima, capito? Non ne hanno di alimentazione quei portatili? Sì, gli ho dato l'alimentatore, gli ho dato, hai capito? L'alimentatore suo già non ce l'avevo, gli ho dato l'alimentatore per caricarlo, solo che in pratica uno carica tranquillo, perfetto, invece l'altro dura, ti posso dire, un giorno e mezzo, hai capito? Evidentemente era già il pacco batterie così, perché l'altro ho visto che la mettevo in borsa, l'accendevo anche dopo 3-4 giorni e era perfetto, capito? Comunque va bene, come portate sono veramente belli, vabbè non c'hanno i toni naturalmente perché sono, c'hanno il tono modello vecchio, sono di quelli di vintage, i capatti 250 sono quelli che sono, però sono nuovi, non c'hanno un graffio, sai vedere un graffio, non c'è un graffio, sono veramente belli quei portatili. Sì, ma funzionano bene, caro, già funzionano bene, cioè devi ascoltare le bande amatoriali, le bande di punti, la diretta, insomma già vanno bene, non c'è problema. Dittimo una cosa, Antonella, la radio è sempre la stessa, sì che mi sembra che ho toccato qualcosa pulendo, va bene? No, sei perfetto, guarda, una bella radio, sei perfetto. Ok, perché non mi ricordavo qua. quanto era? C'era uno, uno e mezzo, questo Michi che è 4.30, boh, non me lo ricordo. Va bene, scusate, ogni tanto mi allontano, perché sono i fornelli, c'è roba al forno. Speriamo che finisca domani questo, questa cosa di mangiare, ne ho già le palle piene. Io ho mangiato a casa di Giovanna ieri, la verità. Quindi ho cucinato solo stamattina. Guarda, c'era... sono uscito verso le 11 perché mi ha detto Sonia, guarda, dice, dopo la te sono aperto, Antonio, dice, non fammi gli auguri stasera, me li fai domani. Allora sono sceso da Sonia e sono venuto un paio di anni che avevo già mezzo cucinato il salsiccione. Quando sono salito a mezzo giorno e mezzo, poi ho continuato a cucinarlo e ho mangiato verso le 2:30, una cosa del genere. E mi sono divertito più che altro. Quindi figurati tu. Stavolta devo cucinare poco niente. Ho già tutto cucinato. Beh, mi voglio invitare anche Giovanna, ma Simona non sta bene e quindi non la voglio lasciare da sola e quindi mangio a casa. Stanotte. Tutto il resto ce l'ho. Non ho bevuto da ieri, in pratica. Mi sono bevuto appena due lattine di quella limone, poi sono giocato appena di quelle sfumante, ho mangiato una bella fetta di pasta al forno, anche il cane si è fatto una bella fetta di pasta al forno ieri sera. Che c'era anche lui giù, ha fatto il coniglio, c'avevamo il coniglio, il cane e il gatto era da parte, ma il gatto era in terrazzina, se no stava già girando le balle. Adesso si applica come il fratello che mi vede, sentono i tommi e mi fa il soffio, capito? E comincia a mirare. Avvicinate la scopa, già te lo faccio vedere io, il bastone della scopa, gli ho detto. Fai la busta, giusto. Vabbè, è così, gli animali sono così. Va bene, va bene. Ehi, la secola ti dico. Si mangia e sta in compagnia, però basta. Con domani chiudiamo i punti. Avanti, Carlo. E vabbè, queste sono giornate tradizionali, le devi per forza passare così in famiglia, a cucinare, a mangiare un paio di giorni, poi meno male già dura poco la festa, dai, lunedì si riprende la normalità. E speriamo, perché poi se ci sono gli avanzi, è quello che gli ha avanzato il progetto, è quello che gli ha avanzato l'agnello, è quello che gli ha avanzato la passaforma, basta, boh, finito. Finito, non si mangia più. Infatti prima mia moglie gli ho detto scherzando, ma cosa mangiamo stanotte? È pieno di roba avanzata, agnello, ce n'è arrosto, ce n'è in umido, ce n'è di tutti i tipi, avanzata pasta al forno, dolci, quindi per oggi e per domani diciamo che già si cucina poco, dai. Il più è stato fatto oggi, adesso bisogna smaltire con la bicicletta tutte queste calorie. Sì, lascia che arrivi in tempo buono, già l'hai visto. Il fatto che c'ho da pulire, da rasare io. So che oggi sta piovendo, vabbè, l'ho già fatto, però già pure nuovamente fatto. Domani la giornata è così, lunedì piove di nuovo, quindi tutta la settimana penso che si riprenda un po' il tempo da mercoledì. Da mercoledì o da giovedì, non lo so, vabbè, comunque faccia quello che vuole. Avanti, Antonio. E io ci ho cinghiale, ancora nel frizzer, gli ho dato a Giovanna, ha detto guarda, me l'avevi dato il cinghiale, ha detto guarda, cucinalo tu, perché io non lo so cucinare, ho detto. Dice già ci pensa Giovanni, mi ha detto. Infatti io ho mangiato agnello, ho detto, cinghiale, non l'ho mai assaggiato, la verità. Ho detto, ho mangiato un altro giorno, che se ne fai, ho affogare cazzo di carne, no, stavolta. Ci stava poca volta, neanche che pare tu l'ho assaggiato, figurati. Ho mangiato quel poco, cioè tra frutta, verdura, eccetera, eccetera, a far culo, a casa ce la faccio, stavo a dormire, stava mal di stomaco. Sono entrato alle 2, si muove accompagnato a metà notte e mezzo. E quindi adesso il ristorante ma si apre il culo per il primo dell'anno. Vabbè, è così, è così. Va bene, dai. Riprendete, io già sono qua, ogni tanto intervengo. Se non mi chiamano da altre parti, che vado a controllare il forno. Vai, Carlo. Via, io lo stesso. Adesso, anno nuovo, vaccino nuovo. Il 20 mi sono prenotato, avanti ieri, il 20 gennaio, dalle 13 alle 14, ho la terza dose da fare. Io ancora ce l'ho parlato tutto lo stesso, ma se ne parlerà a fine gennaio, perché gliel'ho già detto io. Simone invece ha fatto la fesseria di fare il vaccino antinfluenzale, è stata male, ma veramente male, mi faceva male il braccio per due giorni, mal di petto, e quindi ho detto no, prima mi ha fatto la terza dose, gli ho detto vado al medico tu, gli ho detto, perché secondo me, come gli hai detto tu, il tuo vaccino non me fai, gli ho detto, non me ne fotte nulla, gli ho detto, ma ce la faccio, detto, ha fatto il funerale, ha fatto il tuo vaccino. Bueno, adesso glielo spieghi, ti ha fatto fare il vaccino antinfluenzale e sei stata male, e quindi prima ti fai fare bene bene i controlli, dopodiché se è fattibile il terzo vaccino lo fai, se no se la troncano in culo il Green Pass e il cazzo l'ha inventato. Oh yeah. Io risolto avevo un problema alla radio, no? Che quando partiva la caldaietta, lo stavo dicendo a qualcuno ieri o avanti ieri, praticamente mi faceva il disturbo alla radio, capito? Quando ero in ascolto così mi saliva questo disturbo forte, e ho notato che poi come spegneva la ventola finiva il disturbo, ed è perché c'era il filo che esce dalla caldaia e va su un display che era attaccato al muro, passava vicino al filo dell'antenna. Quindi cosa ho fatto? Siccome il filo lo potevo spostare, l'ho messo dall'altra parte e così ho risolto il problema, solo allontanando quel cavolo di filo elettrico che andava al display, no, il display l'ho spostato dall'altra parte e adesso non ho più quel problema. Meno male, hai risolto, non sei tranquillo. No, a volte lo fanno come si dice? Con le apparecchiature per rinfrescare di estate specialmente me lo fanno, mamma mia, quel difetto, ci sono quelle ventole difettose del condizionatore d'aria che in pratica ti creano disturbi. Oppure c'era un periodo, ti parlo l'anno scorso, tutte queste lucine che vendevano i cinesi, e cominciava a sentire cra, cra, cra. Disturbi sono le apparecchiature elettriche, capito? E diciamo che se il cavo è vicino c'è poco da fare, disturbano, capito? E in radio senti tutto. Però fortunatamente avevo individuato il rumore, ho detto cosa sarà questo rumore, cosa sarà questo disturbo, e ho notato quello, e quindi una volta che ho individuato il problema l'ho solamente allontanato e fortunatamente ho risolto, se no iaia. Hai fatto bene, non ti capita così, ma io disturbi di questo genere non ne ho, perché il condizionatore d'aria non ce l'ho qua a casa, da me lo voglio qui vicino. Una volta c'avevo le lucette, la verità, poi adesso sono tutte sparite. Siccome quando di sotto non fa nessuna festa, sembra come si chiama, un musulmano, cazzo, che non festeggia un cazzo. Il giorno di Natale, il Capodanno, nulla, tu non senti niente, non senti né parenti, niente, nulla, non invita nessuno. Io qua in casa c'ho nel salone l'albero di Natale con tutte le lucette, ma che vanno forte, fanno un sacco di giochi eccetera, però non mi creano disturbi quelle cose lì, era solo quello di disturbo e c'era semplice da eliminare, bastava spostare solo il filo, capito? Fortunatamente. Niente, ti stavo dicendo del vaccino, che anche io prima avevo prenotato e mi avevano dato l'appuntamento. appuntamento a fine febbraio, quindi ho cancellato quell'appuntamento, l'ho rifatto e mi hanno messo il 20 di gennaio, solo che il 20 di gennaio avevo pure un altro appuntamento, che devo andare al comune a farmi la carta d'identità nuova, no? Per cui la mattina sono al comune alle 11, dalle 11 a mezzogiorno, e poi dalle 13 alle 14 devo essere lì a Coso, in via Grazia Deledda, dai, a fare il vaccino, già è vizio a casa, però. Sì, c'è anche vizio, tu sai per quello, ma stanno lì lì e tu lo fai lì. Io ho l'appuntamento invece il 24 per fare la visita del fallattacco che si mola. Hai capito? Una volta fatta l'attacco, poi devo andare il 25 di gennaio a consegnare tutto più a Vizzetto. E quindi adesso gira e gira, prendo direttamente l'appuntamento, così faccio tutti e due in uno e facciamo il vaccino tutti e due il giorno del consegno con i fogli, faccio il terzo vaccino sia io sia lì, tanto fanno il vaccino anche lì. Ma tu sei corto, che vaccino vuoi fare? Solo che io ovviamente mi sono scelto questo qua, che praticamente faccio il ponte nuovo e sono arrivato, capito? Sì, già lo so dove è. È vicino a casa tua proprio. Lì, vai a Catalenda. Cioè, mi avrà di notte per esattezza. In via Marghinotti, e poi ti fanno uscire da via Grazia Deledda, perché per fare gli ingressi e le uscite differenziate evidentemente quel palazzo lì consente di fare quel lavoro lì, già è buono, però sono vicino a casa, capito? Invece l'altra volta ci ero dovuto andare a fare la prima e la seconda dose a Cosa, a Predanieda, alla promocamera. E anche io sono andato via a promocamera, sono andato due volte. Lo stesso, a me hanno fatto il Pfizer sia per la prima che per la seconda dose, e adesso non lo so cosa ti fanno. Tutti stanno dicendo che stanno usando questo Moderna adesso, però perché le dosi Pfizer pare che siano finite, però bisogna vedere al 20 gennaio se magari arrivato mi faranno Pfizer di nuovo. Io il 30 lo devo fare. Perlomeno è molto più pesante, comunque, visto che hanno detto, dice, che l'hanno migliorato e quindi adesso copre tutto l'anno. Il 30 di questo mese devo andare, sono prenotato via mia moglie. Mia moglie il 31, l'ultimo giorno dell'anno, sempre in via Marghinotti. E anche noi siamo prenotati lì. È meglio di uscirci a Coso, a Predanieda, la promocamera era un casino anche col parcheggio lì. E infatti. Guarda se ha variato qualcosa, Carlo, nel segnale, che avevano rifatto il PL dell'antenna, boh, perché a Luca io lo sentivo basso, basso, basso, io lo sentivo sempre bene a Luca, boh. Guarda Natali, a me mi arrivi fondo scala qua, la radio è chiara, pulita, è come eri prima sei adesso, è Luca lo stesso, Luca lo sento 9+30 qua da me, capito, però sì, ho sentito che lui aveva problemi, che ti sentiva basso, basso, ti ha chiesto ma sei in macchina o che cosa, evidentemente c'è qualcosa che magari non lo so, sta disturbando quel tragitto lì, diciamo, da casa di Luca a te, capito? Sì, infatti mi sembra abbastanza, io sentivo sempre bene a Luca anche quando era giù, e adesso l'ho sentito basso stasera. No, tu già stai uscendo bene, qua mi arrivi a fondo scala, capito? Io quasi tutti qua li sento bene, capito? Va bene la radio e va bene il segnale, capito? Io ti sento sempre guardata, la verità, me lo conosco, è capitato anche a me la verità stasera. Stavo parlando con Baracchino di cosa, ho trattato. L'ha fatta anche con l'altro, con Saturnetto. Lo spettro era un tilt, capito? La trasmissione andava, ma la ricezione no. Toccava il cazzo, saliva, scendeva. Siccome c'ho l'altro spettatore, c'ho la San Video, ce l'ho. E quindi c'ho lo spettatore di Giudo 113 di quello modello vecchio, quindi mi sono dovuto adattare, hai capito? E K, vediamo un po'. Prevendi esperimenti, no, io attaccato alla radio. radio, c'ho solo il controllo, lo smitterino e basta, e niente, non c'ho altro. Io c'ho il rosmetro attaccato al buco, quindi spesso non ne ho solo. Solo quello va bene, e tanto il rosmetro è un apparecchio di misura e non credo che dia fastidio alla radio, infatti c'è gente che lo tiene sempre, capito? E anche per vedere come stai uscendo, capito? Adesso ti controlla il VAT e le stazionarie allo stesso tempo. E infatti. Con questa antenna ovunque vada, giro 27, vado sul primo, vado sul 20, vado sul 40, sempre non sale neanche a 1, capito? Il ROS. E io invece sono stazionario, ho problemi all'antenna, capito? Da come l'ho messa al primo colpo, ho seguito le istruzioni di metterla in una certa posizione, di misurarla col metro, eccetera. Ho stretto tutto, piazzata, al primo colpo sono sceso, guardato, ho detto, è strano questa cosa. Ho provato a cambiare frequenza pure, eccetera. Sempre bene va, non mi sale niente, anche se cambio tra FM, AM e le bande laterali, rimane sempre così. Lo vedo subito se è cambiato qualcosa, aspetta un attimo. Ciu che ciu, oh, io. Cosa ti fa male, Antone? Niente, è ringraziato, niente, ci mancherebbe. Adesso sto a posto, fa. Di solito, quando ero a stare, non mi attira la mamma, che c'è, stai, non mi attira, fuso, cazzo. Ci voglia anche alzarmi, invece, questi due anni, faccio la bravo, Natale, Capodanno, Buddha. Se c'ho la fame a pezzo la faccio quando sono a casa, non fuori, se no mi faccio male. Io invece, meno male, quest'anno diciamo mi è andata bene sia a Natale che a Capodanno, perché a Capodanno, l'ultimo giorno dell'anno, lavoro sino alle 19.30, da mezzogiorno e mezzo sino alle 19.30, per cui alle 8 sono a casa e me resto a casa tranquillo e pacifico, due mortaretti a mezzanotte, spumante, qualche dolcino e vaffanculo all'anno vecchio, sperando che il 2022 sia un anno migliore, che ne usciamo da questa pandemia del piffero che adesso ci ha rotto le palle. Tu non è per adesso, lascia perdere. Adesso c'è l'Omicron. Allora che a gennaio passiamo tutti in zona rossa, te lo dico io. E vedi gente che si è preso bar, cicoli, cose del genere, tornare nell'inferno, te lo dico io. Uia, siamo messi a posto già. Tocchiamoci così dici. Non ho capito la tarifa, mi è parlato sotto. Ho detto tocchiamoci così diti, speriamo di uscirne da questa cavolata qua. Questi immigrati che stanno arrivando, se abbiamo ancora un culo più di prima ce l'abbiamo. Hai capito? Il punto sicuro, solo l'Italia lo trova strano, in altri posti non trova nessuno i punti sicuri, quindi vengono tutti qua. Ci rimanda la Turchia, ci rimanda la Libia, hai capito? Perché vuole soldi. Più soldi vediamo, se invece non avremmo dato soldi, abbiamo fatto il blocco navale. Sai, per cui non sarebbe uscito nessuno con la banca, te lo dico, questo è poco ma sicuro. Era l'unico modo, invece fanno quello che vogliono, preferiscono dargli i soldi comunitari, a posto di dargli a noi i soldi danno, hai capito, a questi paesi qua. Il discorso è quello. Già lo so, però purtroppo anche loro cercano di sopravvivere e questi arrivano da ogni parte, perché l'Italia purtroppo è circondata dal mare e non ci possiamo fare niente, capito? Tutti arrivano da noi, ne stanno arrivando in Sardegna, ne stanno arrivando in Sicilia, Pantelleria, dappertutto. Perché qua quello che fanno loro possono farlo, solo li ammazzano, capito? Qua vedono la droga, i nigeriani, prima di metterci i nigeriani in Nigeria a spacciare e non li ammazzano da uno a uno. E quindi qua fanno quello che vogliono, non esiste più, hai capito? La legge che... una volta arrivato in Italia, tutti questi anni sono, lo dico io, tutti questi anni, non sono più musulmani, perché spacciano, mettono la ragazza a battere, infatti siamo noi italiani, cazzo che gli diamo la casa, gliela affittiamo, gli diamo le due cittadinanze, non sappiamo che più, uno caro ce l'ha quello. Adesso le cose, le previsioni, e mi sa che aveva ragione Claudio prima, perché da martedì dovrebbe iniziare a migliorare, quindi martedì, mercoledì, giovedì dovrebbe essere una bellissima giornata e anche venerdì magari qualche nuvola ma senza pioggia, quindi da martedì migliora sino a venerdì, poi oltre non vanno queste previsioni, chissà che riesca a piazzarmi l'antenna nuova. E anche io sono in attesa, Carlo. Come non vedi l'ora di usarla, vaffanculo, e poi si mette il tempo, a parte tutti gli altri impegni che devi rispettare, quando c'hai un attimo libero invece guardi, pum, sta piovendo e c'è vento e qua, vabbè, speriamo bene, dai, vai Antonetto. Speriamo bene davvero, mica, se no ce l'abbiamo, in quel posto ce l'abbiamo, speriamo che cambi il tempo. Abbiamo le male piene di quest'acqua e tutto il resto. Lo credo. La variante Omicron comunque è molto contagiosa, 5 volte rispetto a quella precedente, però dice che gli effetti sono più blandi, capito, rispetto alle altre varianti che abbiamo avuto, quindi dovrebbe creare meno danno, meno morti e più contagi, però infatti i contagi stanno aumentando, ci sono alcune regioni d'Italia, infatti sono passate già in zona arancione, e qua in Sardegna lo stesso, non ci passerà molto che se continuiamo così che ci chiudano di nuovo. Qua ce n'è un altro, ne sta nascendo, lo sai. Come Antu? Di variante, ne sta nascendo un'altra. Vediamo che non sia quella nigeriana. La variante di Lugasino. Ma perché non vanno a ammazzarsi che sono pagliacci? Adesso vogliamo un grande poco di variante. Ogni tanto ce n'è una nuova. Magari uno invece a fare un culo. Il vaccino te l'hai fatto tu, Anto? Certo che gli ho fatto il vaccino, non posso travagliare. Io lo stesso, ho fatto la seconda dose, adesso il 20 gennaio ho la terza. Io addirittura ce l'ho a maggio, ma lo faccio prima. Perché se hai preso l'appuntamento col telefonino, su internet, insomma, lo puoi cancellare e lo puoi di nuovo riprogrammare. Io ho fatto così, se no a me mi andava a finire a fine febbraio, quindi l'ho cancellato, rifatto e me l'ha fatto fare prima. Ma appunto io veramente stiamo diventando una medicina, stiamo diventando. È una cosa incredibile. Siamo cavie, come i topi, ci bucano, ci provano e tanto se non facciamo così comunque non ne usciamo. Ma ancora non ne pigliate Maruguro però, cioè prima la variante di Nocchi e la variante di Kinda, allora ve ne è un'altra, ma anche voi pigliate Maruguro, cioè ma stai scherzando, secondo me c'è qualcosa che non va. I sanitari ci dicono così, che praticamente questo virus si evolve a seconda di che zona trova, per dire in Africa che non hanno fatto i vaccini, magari quando la gente viene contagiata e questo diventa dominante, crea, perché non trova resistenza, crea una variante nuova che poi va di contagio in contagio, finché dall'Africa, poi così come è successo, arriva in Europa, arriva in tutto il mondo, capito? Però se non decidono di vaccinare tutti in tutto il mondo, non ne usciamo più da questa cosa. Sai cosa dico? Che io non ci credo. Cioè, io vado a farmi i vaccini perché purtroppo non sono ricco e ho bisogno di lavorare, però io non vi credo. E tutti siamo così, lo stesso. Io se devo lavorare devo essere vaccinato, se no blocco dello stipendio e buonanotte ai suonatori. Mia moglie, idem, lei lavora ed è obbligata perché è insegnante a fare tutte le dosi. Siamo tutti così, miei figli lo stesso, mia figlia che ha 16 anni ha fatto le due dosi, mio figlio ne ha 23, lo stesso, lui ha fatto le due dosi e adesso la terza la devono prenotare loro. Veramente io non ho parole, non ho parole, non lo so, cavolo. Secondo me perché che cosa che non anda, beh. Ci sono dei medicinali Eva e non sono neanche quelli. E lo sto facendo per guadagnare soldi. E non credo, no, non credo. Già li paghiamo noi comunque, perché a noi ce li passa lo Stato gratuitamente, però quando paghiamo le tasse i soldi nostri già vanno anche lì, capito? Quindi speriamo che non sia così, come stai dicendo tu, io me lo auguro che non sia così. Comunque, speriamo bene, dai, il 2022 che a uscirne da questa rogna. Poi, guardami, caso strano ci rovinano sempre le feste. Caso strano, non ci sono feste, va tutto bene. Cioè, caso strano, abbassano anche i contagi. Magari se piglia il malocuro. Infatti ci sono tutti gli albergatori del nord Italia dove hanno stazioni sciistiche e insomma a Bormio, quelle località lì, no? E sono tutti adirati perché se chiusono tutto, tutta l'economia di quella zona che vive di turismo invernale, se ne vanno tutti a fanculo, lì non guadagna più nessuno, devono licenziare il personale assunto per la stagione, non riusciamo più e va in crisi anche l'economia di nuovo. No, veramente incredibile, guarda, è incredibile, no? Non si negava più piedi. Chi c'era? Avanti un po'. Andiamo a corso, in Libia ce l'abbiamo. A Bellorino non c'è niente, hai visto? C'è solo la guerra e basta, adesso fa poco così. Si scordano di nuovo, capito, per la questione del petrolio, eccetera, eccetera. A Bellorino. Lì non è morto nessuno di Covid. Solo di guerra li muoiono. Appunto lì ci devi andare col casco e il giubbotto antiproiettile anziché la mascherina, Antonio. Fatemi, adesso quando finisce la guerra mi sa che me ne vado in Libia, mi cerco un lavoro di lì, mi cerco, sono in Tunisia, a Mamet me ne vado dove andava a Craxi, quello sono di qua. Vivo di rendita con 700 euro al mese, fatto, tutti fanno così, mi. Tutti i senegalesi se ne stanno facendo tutti in Pinsenega, anche in Coso, fanno 15 giorni in Italia, dopodiché adesso se lo passano tranquillamente con 700 euro in Senegal, hai capito? E noi li mandiamo dei tuoi cittadinanza, li mandiamo. Lo stipendio se ne va via con le bollette e internet e telefonini e la corrente elettrica e il gas e insomma noi abbiamo due stipendi, ma uno se ne va con queste cose, e bollo di macchina e bollo dell'altra macchina e assicurazione e l'altra assicurazione, poi c'è la frizione, poi veghido e veghiscio, insomma c'è sempre da pagare qua. E purtroppo ci abbiamo sempre da pagare, non ci possiamo fare nulla. E io vago, diceva quello, io vago. Così, poi qua è una lotta lo stesso, è figli a scuola, è libri, è qua, è là, è iscrizioni, è mamma mia, è affitti da pagare, che uno ce l'ho a Milano che sta studiando, capito? Quindi alla fine noi ci stiamo facendo il culo a essere schiavi di questo lavoro, capito? E c'è chi ha lavorato 20 anni ed è in pensione a 38 anni, 40 anni, capito? Sta mangiando, cazzo, senza lavorare. Sì, per carità, guarda, una bomba da chi le prende? A me è per da noi, no? Manto, ho detto, ma eppure mi sembra già voce già sentita la tua. Ma non è che prende le bombole da noi, no? No, no, io c'ho il gas, quello di Medea, l'aria gas con aria propanata, capito? Ah, ma chi è che voleva entrare? Ho sentito un fischio. Oh, se n'è andato, forse era qualcuno di passaggio. Oh, che ne so. Prego. Sì, buonasera a tutti e di nuovo gli auguri a chi non l'ho fatto. Ciao Antonio, ciao Carlo, poi chi c'era? Non ho sentito nessun altro. Ciao Robè, auguri, buon Natale, ben sentito. C'è Antonello, Antonio, c'era Luca, non so se ancora in ascolto, Natalino. Auguri a tutti gli amici qua della 27. Ma hai piazzato l'antenna, Carlo? No, negativo, ho solo preparato alcune cose, tipo ho aggiunto un'altra staffa e mi sono preparato il tubo perché non aveva gli attacchi per stringere, capito? Perché ci infilo dentro l'altro e questo è un tubo bello grosso, è da 3 mm, è, diciamo uno spezzone, non è proprio da 3 metri, è 2,75, evidentemente era stato tagliato, però ci infilo dentro l'altro che è da 40 e praticamente ho fatto due fori, me li ho filettati e ho tagliato due bulloni, capito? E li ho fissati là e quindi adesso è pronto. Ma li ha saldato dei dadi sul tubo? No, non ho saldato dei